Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Giù, Piazza Affari scende di oltre il 7% come le altre borse europee, cali pesanti per tutte le banche e Telecom. E sulla crisi finanziaria Napolitano raccomanda ai giornalisti niente allarmismi. Va ad un grande negoziatore, il premio Nobel per la pace, l'ex premier finlandese Martti Ahtisaari. Arriva in Italia l'intelligence anticorruzione, una nuova task force per la trasparenza nella pubblica amministrazione. I graffiti, reato. Oggi Consiglio dei Ministri a Napoli, tra i provvedimenti un decreto sul decoro urbano in XL. Vi racconteremo quali sono le norme che già esistono. Nuovo calo per la produzione industriale, oggi fra sindacati e Confindustria, incontro sulla riforma dei contratti. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, in apertura alla nuova difficile giornata sulle borse mondiali. Deborah Rosciani, dallo studio di Salvadanaio, da dove hai trasmesso fino a pochissimi minuti fa, ti sei spostata in quello multimediale, dove è appena iniziato il forum sulla crisi, in diretta fino alle 15 sul sito www.ilsole24ore.com. Allora, che cosa sta succedendo sulle borse? Succede che esattamente come è successo ieri sera a Wall Street, come replicato questa mattina di nuovo per la terza giornata in questa settimana, come replicato questa mattina in Asia, il mercato europeo viene travolto dalle vendite e i listini europei sono tutti in discesa fortissima. Parigi meno 7,63%, Francoforte meno 8,17%, Londra meno 7,47%, ci sono state delle punte di perdita anche fino a 10 punti, Milano sta perdendo l'8%. Naturalmente nella bufera sono ancora una volta i titoli del settore bancario, ma per la verità questa mattina gli operatori non stanno facendo alcuna selezione, stanno perdendo pesantemente anche quei titoli dove tradizionalmente ci si rifugia in giornate pessime come questa. Per esempio Eni, tanto per farvi un caso, è sospesa in questo momento per eccesso di ribasso, anzi insieme a Tenaris, quando perdevano il 9%, sospesa dalle contrattazioni da almeno un'ora. Unicredito, il titolo stava perdendo il 14%, Intesa San Paolo meno 9%, quindi una nuova giornata di bufera per i mercati finanziari internazionali, iniziata da ieri, da quando il direttore del Fondo Monetario Internazionale nazionale Strauss-Kahn ha affermato che l'economia mondiale, come se non fosse ormai abbastanza chiaro, è sull'orlo della recessione. Per ora è tutto. Grazie Deborah, ci risentiamo con te tra circa un quarto d'ora per nuovi aggiornamenti. Dunque avete sentito, un venerdì nero, così come nero era stato il lunedì, insomma una settimana difficilissima per l'economia e la finanza mondiali. Ecco un quadro di quel che è successo, una sorta di film di questa settimana. Dopo il fallimento di Lehman Brothers e l'approvazione del Congresso del piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari, la settimana scorsa si è chiusa con gli occhi puntati sull'Europa, alle prese con la crisi di liquidità delle banche. Il presidente di turno Sarkozy convoca Italia, Germania e Gran Bretagna a Parigi. Il G4 raggiunge una intesa. L'Europa salverà le banche in crisi, ma i manager colpevoli pagheranno per le loro responsabilità. Ma una via comune non c'è. Domenica il governo tedesco, che ha già tentato il salvataggio di Hypo Real Estate, annuncia il suo drastico intervento. Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Il governo, spiega il cancelliere Angela Merkel, introdurrà una garanzia pubblica per 568 miliardi di euro per garantire i risparmi di tutti i correntisti. In Italia si riunisce il CDA straordinario di Unicredit, la banca italiana maggiormente esposta ai mari della tempesta finanziaria. Viene varato un super aumento di capitale da 6 miliardi e mezzo di euro. Così Alessandro Profumo. Ma possiamo dire che chiaramente c'è in corso una rilevante turbolenza, ma che il sistema bancario italiano è solido. Io credo che sia un piano estremamente importante, perché c'è un rafforzamento della base patrimoniale di 6 miliardi e 6. Lunedì è il giorno del tonfo storico, il peggiore dopo la crisi del 29 a Wall Street. Londra cede il 7,5%, Parigi addirittura il 9%, Milano chiude con un meno 8%. Dopo il G4 le posizioni dei ministri finanziari europei restano però distanti. Italia e Francia vorrebbero un piano comune, mentre Gran Bretagna e Germania scommettono sull'intervento nazionale. Al presidente di turno Sarkozy non resta che ribadire la determinazione di principio a proteggere i cittadini coinvolti nella crisi. Intanto a Berlino, per un vertice con la Merkel, Berlusconi ribadisce la posizione italiana. Ho proposto, e ancora oggi sono convinto che sarebbe la cosa migliore, un ombrello, un fondo comune da parte di tutti i 27 paesi europei. Quello tuttavia che mi sembra oggi acquisito è un metodo comune. Martedì il Fondo Monetario stima in 1.400 miliardi di dollari le perdite dell'economia globale. Le borse affondano ancora. Intanto il vertice Ecofin dei ministri finanziari europei raggiunge un complicato equilibrio. I governi possono iniettare denaro pubblico nelle banche. Bruxelles chiuderà un occhio sugli aiuti di Stato. Mercoledì, nonostante rassicurazioni e piani di salvataggio, le borse vanno ancora a picco. A metà giornata le 5 principali banche centrali al mondo decidono dunque per la prima volta un taglio congiunto dei tassi di interesse. La Gran Bretagna annuncia 50 miliardi di sterline direttamente nel capitale delle maggiori banche per ridare stabilità al mercato del credito. Le borse però affondano ancora una volta. Londra, Milano e Francoforte scivolano di oltre 5 punti. Anche il governo italiano interviene, ma senza nazionalizzazioni, spiega il ministro dell'economia Tremonti. Se ritengono che è necessario più capitale, capitale non lo mettono gli azionisti o il mercato, lo mette il governo. Lo mette il governo quel capitale in una logica che non è di nazionalizzazione ma di supporto. Giovedì gli interventi di emergenza sono ormai stati approntati, le borse europee aprono positive, poi però ripiegano sul calo di Wall Street che termina la seduta con un pesante meno 7,3%. Restano molte incertezze, il segretario del Tesoro americano Paulson dice che ci saranno altri fallimenti. Per il Fondo Monetario il mondo è sull'orlo di una recessione globale. Alessio Maurizio, GR24, il Sole 24 Ore. In questo quadro aumenta naturalmente la richiesta di buoni del Tesoro. Ebbene, la notizia di questa mattina è che il Tesoro ha comunicato che, date le attuali circostanze di mercato, i bot a 3 mesi offerti oggi in asta sono stati aumentati. Il quantitativo è stato aumentato da 4.000 a 6.000 milioni di euro. Sulla crisi oggi è intervenuto al Quirinale il presidente Napolitano facendo un appello specifico ai media, rivolgendosi in pratica proprio a noi giornalisti. Sentiamolo. Vorrei solo declinare quindi il tema della responsabilità dell'informazione brevissimamente in rapporto al momento che viviamo. Innanzitutto una crisi finanziaria con pesanti ricadute sull'economia che ha assunto dimensioni mondiali e presenta danni e rischi gravi per tutti, per l'Europa, per l'Italia. Questa crisi chiama senza dubbio a un forte senso della responsabilità nazionale ed europea le nostre istituzioni, le forze politiche di entrambi gli schieramenti e il mondo dell'informazione. Non alimentare un allarmismo che in questo campo può diventare immediatamente fattore di aggravamento della crisi è dovere che certamente anche chi fa giornalismo oggi avverte e sa di essere chiamato ad assolvere. E c'è chi di questa crisi riesce a beneficiare. Non a caso è stato soprannominato l'oracolo di Omaha, la sua città di nascita. Ci riferiamo al grande finanziere Warren Buffett. Che cosa è successo, Alessandra? È successo che la crisi dei mutui ha praticamente cambiato la classifica al vertice dei 400 uomini più ricchi degli Stati Uniti, classifica elaborata come di consueto dalla rivista Forbes. E allora Warren Buffett ha superato in vetta alla classifica Bill Gates, lo conosciamo tutti, insomma il patron di Microsoft, e questo ricalcolo è stato dovuto appunto agli effetti della ricchezza derivanti dalle oscillazioni di borsa. Da grandi personaggi della finanza e dell'economia a grandi personaggi della politica, di quella internazionale, ci riferiamo al Nobel per la pace. Al Nobel per la pace, l'annuncio è arrivato alle 11 di questa mattina, ora italiana, un annuncio inaspettato perché il Nobel per la pace 2008 è stato assegnato al finlandese Martti Ahtisaari. Il nome di Ahtisaari, dicevamo, è quasi una sorpresa. Nelle ultime ore le voci erano tutte per Ingrid Betancourt, la ex prigioniera delle FARC liberata a luglio. Nei giorni scorsi i bookmaker avevano scommesso su alcuni dissidenti russi e cinesi, anche perché il 2008 è l'anno del 60° anniversario della Carta dei diritti dell'uomo. Poi però i giurati di Oslo hanno smentito tutti. Alla fine la scelta dell'Istituto Ricerche sulla Pace di Oslo è caduta su un nome solido e indiscusso. Martti Ahtisaari, diplomatico ed ex presidente della Repubblica Finlandese, è Nobel per la Pace 2008. I 5 giurati scelti dal Parlamento norvegese hanno detto di aver scelto Ahtisaari per i suoi importanti sforzi in diversi continenti e per oltre 3 decenni alla risoluzione di conflitti internazionali. E in effetti la vita del 71enne Ahtisaari è stata tutta animata da un instancabile impegno diplomatico. Inizia all'università, con diverse associazioni studentesche si occupa di cooperazione internazionale, una scelta che gli apre le porte della diplomazia. Nel 1973 diventa ambasciatore in Tanzania, poi è commissario dell'ONU per il processo di indipendenza della Namibia, concluso nel 1990. E quello, ha detto Ahtisaari alla radio norvegese NRK dopo la notizia del premio, il mio risultato più importante. Nel 1994 viene eletto presidente della Repubblica, ma non frena il suo impegno diplomatico. Nel 95 guida l'adesione del suo paese all'Unione Europea, nel 97 ospita le trattative sull'allargamento della NATO, nel 99 a Belgrado guida i colloqui per la fine della guerra del Kosovo. Nel 2000, ha lasciato l'incarico, fonda il Crisis Management Initiative, una ONG che opera per la risoluzione dei conflitti. Nel 2005 è protagonista dell'accordo di pace in Indonesia dopo 30 anni di guerra. Nel 2006 diventa inviato speciale dell'ONU per il Kosovo. Nel marzo del 2007 consegna al Consiglio di sicurezza una relazione in cui ne raccomanda l'indipendenza sotto supervisione internazionale. Un anno dopo, il 17 febbraio 2008, il Kosovo proclama unilateralmente la sua indipendenza. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. In diretta con noi oggi in studio c'è il nostro nuovo direttore Gianfranco Fabi, direttore. Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutti. Solo una piccola incursione per salutare gli ascoltatori di questo GR dopo aver fatto l'editoriale questa mattina in una giornata molto importante per me, perché inizio questa avventura alla direzione di Radio 24, ma una giornata caratterizzata ancora una volta da un crollo dei mercati azionari, lo abbiamo appena sentito, per i venti di crisi e di recessione che continuano a spirare sull'economia. Avrei voluto arrivare in un giorno di buone notizie, ma dobbiamo avere il coraggio di trasformare i problemi in opportunità, il coraggio di cogliere all'interno di un mondo indubbiamente sempre più complesso tutti gli spiazzi per quella che può essere una crescita personale e sociale. Radio 24 avrà questo impegno, essere un compagno di viaggio attento, autorevole, utile e cordiale. Un compagno di viaggio che, come ho detto questa mattina alle 7, avrà come metodo di lavoro quella frase di San Paolo in cui si dice: vagliate tutto, trattenete il valore. Radio 24 non avrà così confini nel parlare naturalmente di politica e di economia, ma anche di musica e di sport, di cultura e di società. E avrà la volontà di guardare avanti, soprattutto in questi momenti difficili, perché vogliamo mantenere la fiducia sul fatto che le soluzioni possono essere sempre, almeno una in più, dei problemi. Grazie da Gianfranco Fabi, Radio 24, naturalmente. E grazie al nostro nuovo direttore Gianfranco Fabi. Ora noi, Simone, ci proiettiamo verso questo fine settimana. Sì, cerchiamo per un attimo, diciamo, se ci riusciamo, di tirare il fiato, di non pensare ai problemi. I consigli del nostro gastronauta, Davide Paolini. Dove andare una sera di un weekend, magari di oggi, venerdì? E forse nelle Langhe, alla scoperta del tartufo bianco che comincia a essere di grande stagione. Ebbene, c'è un posto magico, aggiungo anche alla parola mitico, tanti aggettivi sicuramente molto forti, ma sono meritati da un personaggio fuori del comune che si chiama Cesare Giaccone. Il luogo è l'angolo di paradiso da Cesare, è veramente un luogo di paradiso perché i suoi piatti sono davvero, come posso dire, originali e fuori dalla norma. Ebbene, cosa si mangia? Beh, da Cesare il menù può anche variare, però sicuramente in questo momento porcini e pesche possono essere un piatto da ricercare. Ovviamente il tartufo combinato con della pasta fatta in casa, ma anche della selvaggina e anche della carne. Ma forse il pezzo forte è il capretto allo spiedo, che gira per 365 giorni, non manca mai. Assaggiatelo perché è davvero unico. E per finire, un grandissimo zabaione. L'angolo di paradiso da Cesare ha al baretto della Torre, in provincia di Cuneo. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Ancora in calo tutte le principali borse europee, dopo che anche Wall Street ieri sera e Tokyo questa mattina avevano chiuso fortemente negative. Milano giù di circa l'8%, Francoforte ha sfiorato un ribasso del 9%. Pesanti tutte le banche, Unicredit sospesa. Sulla crisi interviene anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Tutti devono avvertire la responsabilità di non alimentare l'allarmismo. Serve un forte senso di responsabilità nazionale ed europeo, ha aggiunto Napolitano, da parte delle istituzioni e della politica. Nessuno se lo aspettava. Nobel per la pace all'ex premier finlandese Martti Ahtisaari, che negoziò la pace in Kosovo. Interviene la Serbia. Speriamo che il premio non sia stato assegnato per quello. A arriva in Italia una task force anticorruzione nella pubblica amministrazione. Avrà il compito di coordinare tutte le forze in campo per garantire la trasparenza. Consiglio dei ministri in corso a Napoli, all'esame un decreto sul decoro urbano. Secondo indiscrezioni, tra le norme si prevederà che fare graffiti diventi reato in qualsiasi caso. Prima di dedicarci alla nostra intervista del giorno, il nostro flash sulla borsa, gli aggiornamenti, Deborah Rosciani. Sì, eccoci. Allora, sta proseguendo l'ondata di violentissimi ribassi che sta colpendo da questa mattina l'Europa, replicando lo stesso copione che ha già scritto Wall Street ieri sera, che ha scritto tutta l'Asia questa mattina. Parigi, meno 7,33, Francoforte, meno 8,21%, Londra, meno 7,35, Milano, S&P MIB, meno 7,53%, MIPTEL, meno 6,88%. Praticamente questa settimana il mercato azionario internazionale ha annullato tutto quel recupero che era riuscito a mettere a segno dai minimi del marzo del 2003, quando da quel momento era iniziata la fase di mercato toro. Praticamente tutti questi anni sono stati completamente annullati, con l'ondata di ribassi che ha soprattutto penalizzato i mercati questa settimana. Abbiamo avuto il lunedì nero, un nuovo mercoledì nero e si chiude la settimana in maniera altrettanto nera. Le vendite stanno colpendo tutti i settori, particolarmente colpiti naturalmente, come sta accadendo la settimana, i titoli del credito. Unicredito a Piazza Affari, peggior titolo, non riesce a fare prezzo, non riesce ad entrare in contrattazione. Quando segnava un ribasso del 14,23% è stata congelata. I ribassi però colpiscono anche UbiBanca, Eni, è sospesa Tenaris, Saipem, meno 8% anche per Intesa. I ribassi, dicevamo, riguardano tutti. Vi volevo leggere una notizia che è arrivata poco fa, almeno per dare un segnale incoraggiante e di fiducia al mercato. La Popolare di Milano ha avviato poco fa, lo ha comunicato poco fa, un programma di riacquisto di azioni proprie. Generalmente questi gesti vengono considerati proprio come segnali di fiducia al mercato, speriamo che lo sia anche in questo caso. Al momento un grande effetto però non lo abbiamo ancora visto. Grazie Deborah Rosciani, che ci stai parlando dal nostro studio multimediale, dove si sta svolgendo il forum che potete trovare, che potete ascoltare e vedere sul sito www.ilsole24ore.com. E adesso parliamo di politica in un modo un po' particolare. Sfogliando la stampa tutti i giorni ci si imbatte in un piccolo riquadro a firma Iena. Sono poche righe che ci danno un po' il senso della vita politica ma anche della vita sociale. Sono sempre frasi pungenti, ironiche, a volte anche sarcastiche. Dietro questa firma Iena, e non è un mistero, non lo sveliamo certo oggi, c'è Riccardo Barenghi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, adesso queste battute sono state raccolte in un libro intitolato Iena, punto, edito da Fazzi. Tanto per darvi un'idea, 1 giugno 2008, c'è in questo riquadro della stampa, che prima era sul Manifesto tra l'altro, si sveglia verso le 7:30, caffè, doccia, legge i giornali, fa un paio di telefonate, rilascia una dichiarazione all'ANSA, passa in Parlamento, fa una comparsata al TG, pranza con un collega, si riposa un'oretta, spera che qualcuno gli chieda un'intervista, prenota un ristorante per la sera, mangia, torna a casa, un po' di TV, legge 10 minuti e si addormenta. La dura giornata di un ministro ombra. Riccardo, ci stiamo concentrando molto sul centro-sinistra in questo periodo. Periodo in cui il centrosinistra fa la parte del leone nelle mie Iene, sembrava un paradosso, ma insomma, d'altra parte io vengo da lì, la mia storia di sinistra, li conosco meglio e poi vi devo dire una cosa, quindi conosco bene i loro vizi, le poche virtù, gli sbagli che fanno e poi ci tengo, diciamo così, a cercare di correggere anche in questa forma molto ironica e anche cattiva. Devo dire che io un'ora o due anche al giorno io ci provo, mi concentro moltissimo su Berlusconi, il centrodestra, ma me ne vengono pochissime, anche perché loro se le fanno piuttosto da soli. Insomma, per te, no? È più facile ironizzare sul centrosinistra che non sul centrodestra, indipendentemente dal fatto che sia o meno al governo? Molto più facile, non c'è paragone. Sul centrodestra ne ho fatte tante negli anni scorsi, poi a un certo punto il centrosinistra si è imposto alla nostra attenzione, mia Iena, e quindi adesso insomma è abbastanza protagonista, anzi è protagonista. E allora ne leggerei una decisamente molto attuale del 19 giugno di quest'anno sul famoso dialogo fra maggioranza e opposizione. Ecco. Il dialogo è finito, gli amici se ne vanno. Che inutile serata, amore mio. E fra parentesi, parole e musica di Ornella Veltroni. Ma come ti vengono queste cose? Le pensi in un minuto o in tutta una giornata? questo è difficilissimo spiegarlo, cioè, nel senso che non lo so neanch'io. Ovviamente dalla mattina io c'ho, più che penso, c'ho la iena che frulla nella testa, anche l'ansia di dover fare questa iena, perché ovviamente lì non è un articolo, se non viene una battuta efficace quello spazio rimane vuoto, quindi insomma è un impegno abbastanza gravoso. Dopodiché a un certo punto viene, anche il mio direttore mi chiese all'inizio, quando 3 anni fa diventò appunto direttore della stampa, mi chiede: quando sai su che cosa la fai, dimmelo, così io anche mi regolo sul giornale, eccetera. E io gli ho detto: io non te lo posso dire su cosa la faccio, perché quando lo so solo quando la faccio. Quindi a un certo punto improvvisamente viene, e evidentemente c'è tutto il lavoro, guardo le notizie, le ore e ore, e poi a un certo punto, però finché non viene non c'è. Eccone due ormai rare su Berlusconi. La prima, 26 agosto 2006. Berlusconi annuncia che è stato condannato a restare in politica. Diamogli l'indulto. La seconda, che oscilla tra centrosinistra e centrodestra, diciamo 14 maggio 2008. Chi sta al governo deve occupare tutto il campo della politica, anche quello dell'opposizione. La teoria era di D'Alema, la pratica sarà di Berlusconi. Qualcuno ha mai protestato per le tue iene? Hai ricevuto pressioni? Guarda, direttamente no, però sia quando stavo al Manifesto, io poi facevo il direttore quando facevo la Iena, quindi non è che mi telefonavano direttamente, però facevano sapere a colleghi vari che insomma si erano incazzati, sì, ma questa Iena, ma perché ce l'ha con me, così in particolare Fassino. Poi la cosa è continuata un po' alla stampa, però sempre con indirettamente, cioè mai direttamente nei miei confronti. E poi adesso devo dire che sono parecchio tempo che non sento più lamentele, o a meno che, diciamo, il mio direttore molto carinamente non se le tenga per sé, non me le dica. Comunque a me non mi ha mai detto niente, si è lamentato quello, si è lamentato nessuno. Io spero che si continuino a lamentare, perché sennò, o comunque diciamo così, che gli faccia un po' male, sennò sarebbe meno efficace. Non è solo la politica italiana che ti ispira, ma anche quella internazionale. Leggo una bellissima e amarissima iena del 19 novembre del 2004, si intitola Dialoghi. Arafat arriva e incontra Rabin. Finalmente ti rivedo, dimmi un po' la verità. Ma chi ti ha ucciso a te? E l'altro risponde: ma che domande, un israeliano. E a te invece? Una grave malattia, risponde Arafat. E Rabin replica: pure lei israeliana? Praticamente una barzelletta, anche se molto sì, amara. Molto amara, sì. Beh, perché la iena, voglio dire, non fa solo ridere. A volte sono appunto molto amare. Me ne ricordo uno quando ci fu quella strage di bambini appunto in Ossezia anni fa, che diceva un papà diceva: c'era una volta un bambino osseto, e il bambino rispondeva: e poi papà, poi è finita tesoro. Bene, questa non faceva ridere per niente. No, era molto dura. Diciamo che spesso le tue iene non è che fanno solo sorridere o ridere, ma fanno più che altro riflettere. Sì, io spero che sia così, spero che in quelle poche righe di riuscire a sintetizzare in quella forma, quindi anche scherzosa, anche appunto sarcastica, però di sintetizzare bene una posizione politica, insomma, non solo non è una barzelletta, non vuole essere una barzelletta. Grazie Riccardo Barenghi, è appena uscito il libro Iena di Fazzi Editore, e Barenghi ne firma sostanzialmente tutte le battute, la prefazione di Michele Serra. Comunque potete leggere la Iena tutti i giorni sulla stampa. Buona giornata Riccardo. Grazie a voi, grazie. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La Consob sospende fino al 31 ottobre tutte le vendite allo scoperto, sia quella pratica per la quale si vendono azioni senza possederle, scommettendo sul loro ribasso. La misura era già attiva, ma solo sui titoli assicurativi e bancari. E sono ancora in calo tutte le principali borse europee, dopo che anche Wall Street ieri sera e Tokyo questa mattina avevano chiuso fortemente negative. Milano giù di circa il 7%, Francoforte dell'8,5%, pesanti tutte le banche, Unicredit spesa per eccesso di ribasso. Sulla crisi interviene anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Dice di non alimentare l'allarmismo. Serve un forte senso di responsabilità nazionale ed europeo, aggiunge, da parte delle istituzioni e della politica. Nessuno se lo aspettava. Nobel per la pace all'ex premier finlandese Martti Ahtisaari, che negoziò la pace in Kosovo. Ma interviene polemicamente la Serbia, che dice: speriamo che il premio non sia stato assegnato per quello. Arriva una task force avanti corruzione nella pubblica amministrazione, avrà il compito di coordinare tutte le forze in campo per garantire la trasparenza. A Napoli è in corso il Consiglio dei Ministri, all'esame fra l'altro un decreto sul decoro urbano. Forse fra le norme si prevederà che il graffiti, fare graffiti, diventi reato in qualsiasi caso. Produzione industriale in calo ad agosto. Secondo i dati dell'Istat, l'indice corretto per i giorni lavorativi è sceso del 5,3% rispetto ad un anno fa, mentre rispetto al mese scorso si registra un aumento di 1,4 punti percentuali. In questa difficile situazione economica riprende la trattativa fra Confindustria e sindacati per il rinnovo del modello contrattuale. Francesca Malaguti, questa mattina all'ora incontro in Viale dell'Astronomia. Sì, esatto, CISL e UIL hanno detto sì al documento di Confindustria sulla riforma contrattuale, mentre rimane il no della CGIL. L'incontro è terminato da poco, sentiamo subito il commento del vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria, Alberto Bombassei. Il documento, anzi le linee guida che abbiamo indicato sono state condivise da oltre che da noi ovviamente da CISL e UIL, continuano i distinguo da parte della CGIL e mi auguro che possa essere recuperata. La CGIL non dà il via libera alla piattaforma ma continuerà a sedersi ai tavoli e questo, secondo i leader della CISL Bonanni, è un chiaro segno che è pronta a fare qualche passo avanti. Sentiamo il segretario della CGIL Guglielmo Epifani in uscita. Penso che sarebbe un errore dividersi con CISL e UIL e dividersi con Confindustria. Questa mattina non abbiamo condiviso le linee guida del progetto che è stato presentato. Continueremo nell'allargamento dei tavoli a lavorare per trovare una soluzione condivisa perché non è nell'interesse di nessuno che si acuiscano le divisioni tra i sindacati e tra sindacati e Confindustria. In tempi brevi il confronto sarà allargato anche alle altre associazioni di categoria come Confcommercio. Anche la crisi finanziaria, secondo CISL e UIL, deve incidere sulla trattativa perché è bene, dicono, che lavoratori e imprese si uniscano per difendere la realtà produttiva italiana. La Viale dell'Astronomia è tutto. E grazie Francesca Malaguti per questi aggiornamenti. Al via da ieri una nuova task force anticorruzione nella pubblica amministrazione. Sentiamo di cosa si tratta. La nuova casa della lotta alla corruzione sarà il Dipartimento della Funzione Pubblica. Qui avrà sede il Servizio Anticorruzione e Trasparenza. Prenderà il posto dell'Alto Commissario con un risparmio, secondo il governo, di 5 milioni di euro. Si tratta di una struttura tecnica che coordinerà il lavoro svolto da altri soggetti pubblici competenti in materia di trasparenza e prevenzione. Allo stesso tempo fornirà supporto alle pubbliche amministrazioni impegnate a contrastare il fenomeno della corruzione. Per la raccolta dei dati saranno coinvolte anche altre istituzioni, dalle Authority alla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti alla Banca d'Italia, dall'Agenzia delle Entrate alla Consip, fino a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Serviranno linee guida comuni, la mappatura dei rischi e poi ispezioni e indagini. In campo anche la collaborazione internazionale con gli altri organismi impegnati nella lotta alla corruzione. Il governo conta di raccogliere risultati nel breve termine, 6 mesi più o meno. A breve saranno operativi anche un numero verde e un sito per la raccolta di suggerimenti e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora, come vi avevamo promesso, l'intervista al Nobel per la pace 2008 e il mediatore finlandese Ahtisaari, naturalmente intervista che è stata realizzata prima dell'annuncio di questa vittoria dalla nostra Giorgia Scaturro. Sentiamo. Qual è il segreto per una mediazione internazionale che sia efficace? Dobbiamo riconoscere che a volte i paesi non vogliono essere necessariamente al centro dell'attenzione. Hanno il loro modo di intervenire. Dobbiamo essere abbastanza sensibili da capire il modo migliore di entrare in un paese. Alcuni stati vogliono aiutare ma senza farsi notare e noi dobbiamo permetterglielo. Dunque chi gestisce i processi di mediazione deve avere questo tipo di sensibilità. Devi sapere dove puoi andare con il processo di pace e questo può richiedere molto tempo. Bisogna sapere ascoltare i vari paesi e inoltre il mediatore deve parlare la lingua. Una volta parlavo con Kofi Annan e gli ho chiesto se uno come me potesse mai andare in Iraq e ho pensato no, perché non parlo arabo, non conosco i fattori politici. Non basta essere bravi, bisogna trovare qualcuno che abbia queste conoscenze specifiche. Io posso parlare solo svedese. E se volete ascoltare l'intervista integrale al Nobel per la pace Ahtisaari potete entrare nel nostro sito www.radio24.it. Alessandra, tu quante volte anche nella tua carriera giornalistica, diciamo così, hai sentito parlare di giornata mondiale di qualcosa? Oddio, veramente un'infinità. Devo dire che alcune sono veramente serie, per esempio quella che noi ieri abbiamo anche celebrato qui a Radio 24, la giornata mondiale della vista, perché insomma si danno informazioni scientifiche, si danno dati, si dà informazione alla gente. Ma ecco, ci sono la giornata mondiale del cane, quella del gatto, non sto scherzando, insomma sono quelle vere. E... quella dello scarafaggio mi manca. Sì, oggi comunque si celebra quella dell'uovo, sentiamo. Sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo pure la gallina? Se si è nato prima della gallina non è dato saperlo. Quel che è certo è che l'uovo si festeggia oggi in tutto il mondo. Crude, fritte, bollite, strapazzate, affogate, zabaione oppure utilizzate per le ricette del Made in Italy. Ognuno di noi all'anno ne mangia 225 e i consumi in Italia sono in ascesa, visto che, caso raro, il prezzo delle uova non decolla come quello di molti altri prodotti. Nel mondo se ne mangiano 700 miliardi l'anno e c'è chi assicura che 2 uova alla mattina danno più energia e meno calorie di cappuccino e cornetto. Insomma, cena è per festeggiare, ma chi, forse per il colesterolo un po' alto, non intende unirsi alle celebrazioni di oggi, può aspettarne un'altra di giornata mondiale. Tra poco, forse non tutti lo sanno, ci sarà quella del pane, il World Bread Day, il 16 ottobre, promosso dall'Unione Internazionale dei Panettieri. O ancora, per chi si sente ludico e sa che il bello della vita è rimanere bambini, esiste la giornata mondiale del gioco, il 24 maggio, che in realtà poi si allarga sino a diventare una settimana mondiale, perché si sa che certi tornei non si concludono dall'alba al tramonto. Ma non è finita, perché per chi crede che troppa attività faccia male alla salute, è stata approntata la giornata mondiale della lentezza a febbraio, un elogio del rallentare che in 24 ore fa il giro del mondo. Roberta Pellegatta, GR24, e sulle 24 ore. E ora, come sempre, in diretta dal forum che sta andando in corso sul sito www.ilsole24ore.com, la nostra Deborah Rosciani ci farà un flash sulla borsa in questa giornata che abbiamo già definito come essere un venerdì nero, una settimana che del resto era iniziata male con il lunedì nero perché era stata una settimana veramente difficile. Deborah Rosciani, com'è ora la situazione? È esattamente quella che vi abbiamo continuato a raccontare da questa mattina, da quando le borse hanno aperto. I cali sono ancora pesantissimi ovunque, a guidare i ribassi europei e Francoforte, che sta cedendo il 9,28%, segue Parigi, meno 8,36%, Londra, meno 6,95%, Milano, meno 7,34%. Abbiamo raccontato anche di come questa mattina sia stata molto intensa la domanda dei titoli di Stato da parte di risparmiatori. Il Tesoro ha dovuto aumentare l'offerta dei titoli appunto posti sul mercato di bot a 3 mesi e annuali, e abbiamo anche lo stop della Consob alle vendite allo scoperto su titoli finanziari ed assicurativi, per cui stamattina davvero è un'ondata di notizie molto interessanti, per certi versi anche drammatiche, ma in ogni caso a quanto pare questa settimana ci siamo abituati anche a questo. Deborah, Unicredit riammessa in borsa, riammessa agli scambi, quanto perde? Meno 13,86% a 2,30 euro, questo è l'ultimo prezzo segnato esattamente in questo istante. Tra gli altri ribassi segue, dopo quello di Unicredit, quello di Intesa San Paolo, meno 8,77. Grazie Deborah Rosciani, ci risentiremo naturalmente in chiusura di Extra Large. Che punizione rischia chi fa un graffito o uno scarabocchio su un muro? GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La Consob sospende fino al 31 ottobre tutte le vendite allo scoperto, sia quella pratica per la quale si vendono azioni senza possederle, scommettendo sul loro ribasso. La misura era già attiva, ma solo sui titoli assicurativi e bancari. E sono ancora in calo tutte le principali borse europee, dopo che anche Wall Street ieri sera e Tokyo questa mattina avevano chiuso fortemente negative. Milano giù di circa il 7%, Francoforte dell'8,5%, pesanti tutte le banche. Unicredit riemessa poco fa gli scambi, perde oltre il 13%. Tra l'altro sulla crisi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Tutti devono avvertire la responsabilità di non alimentare l'allarmismo. E ancora sulla responsabilità, serve un forte senso di responsabilità nazionale ed europeo da parte delle istituzioni e della politica, ha aggiunto. Una bella sorpresa quello di oggi. Il massimo riconoscimento per la pace è stato assegnato all'ex premier finlandese Martti Ahtisaari, che negoziò la pace in Kosovo. Ma è un Nobel che scatena anche delle polemiche. La Serbia fa sapere, speriamo che il premio non sia stato assegnato appunto per il Kosovo. Arriva una task force anticorruzione nella pubblica amministrazione, avrà il compito di coordinare tutte le forze in campo per garantire la trasparenza. Il Consiglio dei Ministri si è concluso a Napoli, tutto rinviato per quanto riguarda i provvedimenti che comprendevano anche la possibilità di inserire il reato contro l'imbrattamento dei muri nelle città. E proprio di Consiglio dei Ministri andiamo a parlare da Napoli, Enzo Danna. Enzo. Sì, buongiorno. C'era questo importante decreto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri qui a Napoli, consiglio che si è concluso da pochi minuti, come avete ricordato da studio, ma la discussione su questo tema è slittata alla prossima settimana. La bozza del provvedimento prevede un iter più rapido per il commissariamento di quei comuni e di quelle province che non rispettano gli obblighi sulla gestione dei rifiuti, ma soprattutto il decreto prevede anche un inasprimento delle pene per diversi reati legati allo smaltimento dei rifiuti, tra l'altro prevista anche la reclusione fino a 4 anni per chi abbandona rifiuti pericolosi o ingombranti. Siamo in attesa dell'arrivo del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella sala stampa di Palazzo Reale, dove si svolgerà la consueta conferenza stampa, e dunque siamo anche curiosi di capire perché questa discussione è stata rinviata. Se non avete domande... Enzo, solo una domanda rapidissima. Tra l'altro, in questo decreto sul decoro urbano sarebbe dovuta entrare anche la norma sui cosiddetti writers, cioè sui graffiti. Esattamente, sì, un provvedimento per punire praticamente chi sporca le città imbrattando i luoghi pubblici, i muri. Anche questo naturalmente è stato rinviato. Probabilmente sì, anche se siamo, ripeto, in attesa della conferma ufficiale, ce lo dirà direttamente il Presidente del Consiglio quando arriverà qui a Palazzo Reale. Grazie allora Enzo Danna da Napoli. Noi però siamo andati a indagare che cosa effettivamente rischia, secondo le leggi attuali, il cosiddetto graffittare. Ebbene, le leggi e i regolamenti ci sono, ma non c'è una distinzione fra una scritta e ciò che invece può essere considerato espressione artistica. Hanno il compito di dettare regole che allontanino i writers dai muri sia lo Stato sia il Comune. L'imbrattamento degli edifici come reato è già previsto nel nostro Paese da tempo, punito dal Codice Penale in 2 articoli, il 635 e il 639. Innanzitutto il Codice distingue fra edifici o cose di pregio e non. Chi quindi scrive sui muri, incolla manifesti o sfregia le facciate di edifici pubblici, edifici di culto o case dei centri storici, rischia fino a 1 anno di galera, oppure deve pagare una multa fino a 1.032 euro. Stessa sanzione se imbratta cose di interesse storico e artistico, per esempio un monumento. Se invece si imbrattano immobili privati, ma anche arredi urbani non di pregio come le panchine, la multa è più bassa, fino a 103 euro. Queste dunque le regole nazionali, alle quali si aggiungono in alcune città le norme locali, norme esclusivamente amministrative, che dunque non possono prevedere il carcere, ma si limitano a intervenire sull'entità della multa. Per esempio, a Roma la multa è da 80 a un massimo di 500 euro. A Torino chi imbratta edifici sia pubblici che privati rischia di dover pagare da 25 a 500 euro. A Taormina, nel Messinese, chiunque violi i divieti è punito con una sanzione da 155 euro a 259 euro e deve rimborsare anche le spese per la pulizia. Cosa succede allora se un writer viene colto sul fatto in una città che ha un suo regolamento? Sarà il giudice a stabilire se applicare la multa prevista dal codice o quella stabilita dalle norme locali. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore. E da un codice ad un altro passiamo a quello stradale, come consueto il venerdì, la nostra rubrica sulla sicurezza sulle strade. Che cos'è la scatola nera? Credo che più o meno lo sappiano tutti. È questo dispositivo, questo apparato installato a bordo di un veicolo per registrare una serie di dati, soprattutto poi per preservarli in caso di incidente. Per lo più ne abbiamo sempre sentito parlare purtroppo nelle sciagure aeree, no? Ora, il ministro dei trasporti Matteoli, ed è argomento che sottopongo a Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, ha annunciato che proporrà al Consiglio dei Ministri europeo l'introduzione in tutta Europa della scatola nera anche sulle auto. E mi sembra un'idea abbastanza interessante. In realtà, che io ricordi, c'era già stata una fase sperimentale nel 2005, poi non so che fine abbia fatto. Comunque, Silvio, che ne pensi? Innanzitutto potrebbe essere particolarmente importante per la sicurezza stradale, perché è chiaro che conoscendo la dinamica degli incidenti si potrebbe intervenire sulle cause in maniera pressoché scientifica, cioè unendo i rilevamenti dell'incidente stradale con i dati della scatola nera saremmo in grado di ricostruire tecnicamente tutti gli eventi dannosi. bisogna anche considerare che, almeno inizialmente, potrebbe anche costituire una modalità per abbattere i costi assicurativi, perché ovviamente chi dovesse montare questa scatola nera sulla propria autovettura sarebbe più portato a rispettare il codice con, si spera, susseguente diminuzione dei sinistri stradali. Ecco, infatti hai detto una cosa importante, perché quando l'ha annunciato il ministro Matteoli ha detto anche che potrebbe essere questa la scatola nera un grande deterrente nei confronti della trasgressione, quindi di comportamenti non consoni rispetto del codice della strada, quindi non soltanto come mezzo poi di indagine dopo che è successo l'incidente o la sciagura, ma anche preventivo. Certamente, perché è chiaro che avendo un attrezzo del genere, che ovviamente laddove non dovesse consentire manomissioni, perché ricordiamo che poi c'è sempre un po' la furbata dietro l'angolo, certo, laddove non dovesse consentire manomissioni, è chiaro che rappresenterebbe proprio una sorta di registro di tutti i nostri comportamenti. Quindi ritieni che sia un'idea positiva e anche fattibile, no? Visto che dicevo nel 2005 qualcosa di sperimentale era stato fatto? Beh, chiaramente con il mio mestiere sono sempre favorevole a qualunque artificio ci consenta di aumentare la sicurezza sulla strada. Tra l'altro sempre il ministro diceva che in un paese come l'Italia, dove circolano circa 34 milioni di auto, è particolarmente urgente, perché diceva questo numero così vasto in rapporto al territorio e agli abitanti non esiste in nessun altro paese, addirittura abbiamo questo record. Sì, c'è una congestione elevatissima delle nostre strade, in realtà si tratta di fare un conto sui chilometri di strada esistenti e il numero dei veicoli in circolazione, che sono tra l'altro molto di più, perché 34 milioni credo che sia un dato che si riferisca solo alle autovetture. Grazie Silvio Scotti, adesso non ci resta che attendere a vedere se effettivamente poi in sede di Consiglio europeo questa cosa sarà accettata e che poi risultati concreti ci saranno. Intanto Roberta Giordano vi invita come sempre a guidare con intelligenza. E in chiusura ci ricolleghiamo con la nostra Deborah Rosciani per avere un quadro di quel che sta succedendo in questi minuti in borsa. Deborah. Il quadro ha un unico colore, è rosso, rosso profondo su tutti i listini del vecchio continente, guidati da Francoforte, che sta peggiorando anche la sua situazione, meno 9,40%, Parigi meno 8,96%, Londra meno 7 punti, Milano meno 7,65% sull'S&P MIB. In una giornata in cui la Consob ha deciso le vendite, lo stop delle vendite allo scoperto sui titoli italiani in borsa, dopo che il 1 ottobre li aveva già messi al bando sui titoli bancari ed assicurativi, in una giornata che vede anche i prezzi del petrolio scendere a $80 al barile, niente serve al mercato per risollevarsi, i cali sono profondissimi e dovrebbe aprire di nuovo negativa anche Wall Street, con ribassi sugli indicatori americani di circa 2 punti. Ancora giù, Piazza Affari, l'avete sentito poco fa, scende dall'8% come le altre borse europee, Unicredit riammessa agli scambi in calo del 13%, la Consob sospende tutte le vendite allo scoperto. Intanto sulla crisi finanziaria Napolitano raccomanda ai giornalisti niente allarmismo. Va ad un grande negoziatore internazionale il premio Nobel per la pace, l'ex premier finlandese Martti Ahtisaari. Speriamo non sia per il Kosovo, dice polemicamente la Serbia. Arriva l'intelligence anticorruzione, una nuova task force per la trasparenza nella pubblica amministrazione. Confindustria, CISL e UIL d'accordo sulle linee guida della riforma dei contratti. Bomba 6, non escludiamo un accordo separato. Epifani dice resteremo al tavolo. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Cece con in regia Peter Bescapè. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. per riascoltare la trasmissione o anche i materiali, per esempio l'intervista al Nobel per la pace a Tisari, il nostro sito è sempre disponibile, www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, con Extra Large invece ci risentiamo lunedì alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.